Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Lo stile di vita ci salva la vita. Se tutti adottassero uno stile di vita corretto, si potrebbe evitare la comparsa di circa un caso di tumore su tre. Un dato che si commenta da solo, ma da cui vorrei partire oggi per questa puntata, in cui insieme ad autorevoli esperti cercheremo di capire come e in che misura lo stile di vita può svolgere un ruolo preventivo e protettivo per l'insorgenza di alcuni tipi di tumore. Noi possiamo fare molto. Ciascuno di noi è, lo diciamo spesso, e deve diventare protagonista attivo del proprio progetto di salute, ma è anche vero che non tutto dipende da noi. Ci sono dei fattori di rischio che non sono modificabili, come l'età, il sesso, il patrimonio genetico, altri su cui il nostro margine di intervento è piuttosto limitato. Penso all'aria che respiriamo, all'ambiente in cui viviamo, spesso non per nostra scelta. Bene, siete invitati a partecipare chiamando il nostro numero verde 800 24 00 24. Intanto potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Voglio presentarvi gli ospiti di oggi. In studio con me ho il piacere di avere il dottor Armando Santoro, direttore del Cancer Center dell'Istituto Humanitas di Milano. Dottore, grazie. Buongiorno. In linea con noi il professor Antonio Giordano, è presidente del comitato scientifico del Centro Ricerca Oncologiche di Mercogliano e ricercatore di punta allo Sbarro Institute dell'Università di Filadelfia e professore di anatomia e distologia patologica all'Università di Siena. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Nei giorni scorsi, professore, lei ha ricevuto il premio Ippocrate su un riconoscimento molto importante, quindi complimenti, per il suo impegno nella divulgazione scientifica sul tema tumori e ambiente nella sua regione d'origine, la Campania. Sì, infatti è stata una grande soddisfazione, non solo per me, ma per aver riconosciuto appunto il mio lavoro nel promuovere il grave problema degli insulti ambientali che affliggono la mia regione, la Campania, e l'intero sud in realtà. Di questo naturalmente parleremo oggi insieme al professor Giordano, al dottor Santoro e agli altri ospiti che interverranno nel corso della trasmissione, naturalmente insieme a voi. Tra l'altro, professore, lei è stato allievo di un premio Nobel e ha trascorso tanti anni all'estero, ma non ha lasciato completamente l'Italia, anzi ci torna e ci lavora. Insomma, i cervelli vanno ma poi tornano, anche questo è un aspetto interessante. Certo, la mia, diciamo, il mio sogno era quello di poter svolgere un lavoro originale nel paese mio di origine e mi ha dato anche l'opportunità di nascere, diciamo, intellettualmente parlando dal punto di vista scientifico, e di potermi imporre in un ambiente molto competitivo come quello americano. Io tornerei dopo i complimenti, che sono meritati assolutamente, insomma fa piacere soprattutto avere in collegamento il professor Giordano, ci sta parlando dall'America. Io tornerei al dato con cui abbiamo introdotto la puntata di oggi: uno stile di vita corretto potrebbe evitare la comparsa di circa un caso di tumore su tre. Partirei allora da un fattore protettivo che tutti noi abbiamo a disposizione, che è la nostra dieta. Dottor Santoro, sappiamo che un terzo dei tumori nasce da abitudini alimentari scorrette, ma se giriamo la notizia in positivo, possiamo dire che una dieta sana ed equilibrata aiuta a prevenire alcune forme di tumore. E c'è una letteratura su questo? Direi che c'è una fiorentissima letteratura su questo aspetto, che è un aspetto ormai totalmente consolidato. Ci metterei non solo la dieta, ma ci metterei anche l'attività fisica. È importante svolgere un'attività fisica giornaliera, ma basta anche movimento banale, non si chiede di andare in palestra a tutti i costi, e tutto questo consentirebbe di ridurre notevolmente le patologie e le cause di morte in generale, sicuramente in campo oncologico, sentirei dire anche non solo oncologico, anche dal punto di vista cardiologico, respiratorio, di patologie del metabolismo come il diabete. Quindi noi dovremmo essere tenuti a stare attenti alla dieta e a stare attenti anche a svolgere un'attività fisica. Il tipo di dieta può avere appunto delle relazioni sull'insorgenza di alcuni tipi di tumore, ma anche può essere protettiva nei confronti di alcuni di tumore. Quali ad esempio, dottore? Senza ombra di dubbio, soprattutto diciamo i tumori dell'apparato gastroenterico in generale. Una dieta ad esempio ricca di fibre è in grado di ridurre sicuramente l'incidenza sia del tumore del pancreas sia soprattutto il tumore del colon, che è uno dei tumori a grande incidenza nei paesi occidentali, e queste direi sono le due condizioni principali. Lo stesso vale per alcune condizioni di tumore dello stomaco, che sono in riduzione nei paesi occidentali grazie anche a un cambiamento dello stile di vita e delle abitudini alimentari, e quindi anche lì si può agire in maniera significativa, ma soprattutto è la riduzione dei tumori del colon e la dieta e l'attenzione sui tumori del colon. Puntare sulle fibre, ridurre il consumo di grassi, di carne rosse, di alcol, e aggiungere attività sportiva, perché attività fisica, diciamo meglio, perché questo lo è sicuramente. Professor Giordano, il dottor Santoro citava l'attività fisica, noi lo sentiamo ripetere ogni giorno dagli esperti che intervengono a Essere Benessere, lo leggiamo ovunque. Ci sono evidenze, ad esempio rimanere attivi può ridurre il rischio di tumore della mammella nelle donne? Beh, ci sono degli studi che dimostrano che l'attività fisica è un cofattore importante per la prevenzione, come ha detto giustamente il professore Santoro, che era per la prevenzione del tumore alla mammella, anche perché si è visto un certo legame anche tra l'aumento di peso, l'obesità e questo tipo di patologie. Ed è chiaro che l'attività fisica, oltre a una rigorosa alimentazione, gioca un ruolo determinante e fondamentale, perché se si iniziano così a scardinare tutti questi parametri importanti che ci accompagnano nella nostra frenetica vita, è chiaro che noi ci esponiamo a una serie di patologie che non è solo cancro, sia ben chiaro, come malattie cardiovascolari e come diabete, che sono addirittura hanno raggiunto dati da epidemia. Dottor Santoro? Sì, sono totalmente d'accordo. Mi sentirei di aggiungere che forse non è solo l'obesità come la concepiamo, veramente la persona in pesantissimo, in grossissimo sovrappeso. Il problema è anche essere al di sopra di quella che viene chiamata BMI, cioè la massa corporea. Quindi Alle volte possono esserci anche incrementi di peso non consistenti che possono influire. Quindi l'attenzione è veramente a mantenere un peso che sia un peso forma. Si parla ultimamente anche della circonferenza addominale come fattore protettivo. Un'altra cosa brevissimamente vorrei segnalare è che non solo c'è un ruolo di maggior rischio di sviluppare un tumore alla mammella, ma è anche perfettamente dimostrato che l'aumento di peso condiziona la prognosi in senso negativo delle donne, ma in genere di tutti i pazienti che hanno già avuto patologie oncologiche. Quindi è importante mantenere il peso anche eventualmente dopo la diagnosi di una forma tumorale. Dottor Santoro, ci spiega la relazione tra aumento di peso, sovrappeso, grasso addominale la relazione che questo fattore di rischio ha con l'insorgenza di alcuni tipi di tumore? Passiamo attraverso l'infiammazione, che è stata messa come uno dei fattori che possono aumentare il rischio di avere neoplasie? Sicuramente, il meccanismo non è così perfettamente dimostrato. Diciamo che abbiamo più che altro delle correlazioni chiarissime in tutte le patologie oncologiche, ma non è che il meccanismo sia stato sviluppato. Sicuramente l'idea che possa influire dei mediatori, dei fatti infiammatori, di un'infiammazione in senso generale, è uno dei fattori che viene preso in considerazione. È comunque un'alterazione del metabolismo complessivo che è alla base della maggiore incidenza di tumori, della peggiore prognosi una volta che questo è stato determinato. Oggi parliamo di stile di vita, uno stile di vita preventivo e protettivo, quindi mettiamo sicuramente l'alimentazione, l'attività fisica, la cessazione del fumo. Se noi a ciascuno di questi fattori attribuissimo un punteggio 1, volevo chiedere ai nostri ascoltatori che punteggio date al vostro stile di vita. 0, 1, 2, 3, 800, 24, 00, 24, veniamo al fumo, il messaggio è chiaro, non ammette fraintendimenti né eccezioni. Se fumi smetti, se non fumi non cominciare, perché il fumo è strettamente legato a diversi tipi di tumore, ma nei confronti di uno in particolare è dimostrata una relazione tra causa ed effetto, il tumore del polmone. Professor Giordano. Sì, oramai è chiaro che lo sviluppo del tumore del polmone e l'associazione al fumo di sigaretta è una realtà dalla quale non si può sfuggire, e dimostrata non solo scientificamente in in laboratorio, ma anche in un laboratorio naturale, che è quello là proprio della vita che noi conduciamo. E il fumo di sigaretta purtroppo ancora è una delle cause principali dello sviluppo del tumore al polmone, ma non solo purtroppo il tumore al polmone, noi dobbiamo considerare anche le altre patologie dell'apparato respiratorio. Io so anche che il professore Santoro ha un programma sulla prevenzione di questi tumori e il fumo di sigaretta, che è uno dei migliori in Europa, quindi noi dobbiamo aumentare, secondo me, ancora di più la comunicazione nelle scuole, perché io si nota, è anche uno studio recentemente anche in America, che è uno dei paesi dove è nata questa offensiva, sì, anche mediatica contro il fumo di sigaretta. Il fumo anche nei giovani è diminuito in maniera drastica, però continua a essere un problema. Fumano i ragazzi, continuano a fumare le donne, sono il numero di sigarette o gli anni di fumo, dottor Santoro, che possono fare la differenza, o entrambe? È tutto, la durata del periodo di fumo, il numero di sigarette e quanto più precocemente si è cominciato a fumare. Sono ovviamente totalmente d'accordo con ciò che ha detto il professor Giordano, solo per calarci nella situazione, nella realtà italiana. In Italia ogni anno muoiono a causa del fumo 70.000 persone, 35.000 per tumore polmonare, 5.000 per tumore alla vescica, circa 5.000, perché poi non bisogna dimenticare che anche il tumore alla vescica è nettamente aumentato come incidenza nel fumatore, più alcuni tumori del distretto otorino, diciamo testa e collo. Ma in più ci sono 30.000 morti circa per altre cause, sono cardiorespiratori. È un numero incredibilmente inaccettabile. E io credo che, nonostante ci siano grosse campagne antifumo, si potrebbe fare molto di più. Sono totalmente d'accordo, dovremmo cominciare dalle scuole con una forma di educazione contro il fumo, cosa che a mio avviso non viene fatta in maniera così intensiva, costante e oltretutto diffusa su tutto il territorio nazionale, ed è un errore, perché si comincia a prendere la cattiva abitudine al fumo soprattutto nell'età scolare, quindi in quella fascia d'età bisognerebbe intervenire. E poi bisognerebbe anche stimolare i centri antifumo, ma non solo. Noi viviamo anche un'anomalia, ad esempio ci sono alcuni farmaci per i quali è dimostrato che in chi è motivato a smettere di fumare possono aiutare a far smettere di fumare. Sempre questi farmaci in Italia, nonostante varie pressioni da parte di molti che ci interessiamo di campagne antifumo, non siamo riusciti ancora ad ottenere gratuiti, ecco, di essere a carico del sistema sanitario nazionale. A mio avviso è un grosso errore, perché è un costo relativamente modesto, soprattutto se paragonato al costo enorme poi della gestione delle patologie correlate al fumo. Buongiorno, mi scrive un ascoltatore. La sigaretta elettronica può ridurre il rischio di tumore? Grazie e complimenti. Apriamo una piccola parentesi. Professor Giordano, vuole rispondere lei o passiamo la parola al dottor Santoro? Le sigarette elettroniche vanno forti in America? Dico che le sigarette elettroniche, diciamo, è uno di quei metodi che sono venuti fuori, che la tecnologia così ha generato, riesce ad avere un successo, anche se il successo è ancora molto limitato, perché come ha detto anche il professore Santoro, poi si arriva a una assuefazione, quindi la sigaretta elettronica dovrebbe essere solo un modo per poter distrarre il nostro cervello dall'assuefazione a un determinato tipo di, come in questo caso alla nicotina. Ed è chiaro che è una tecnologia che aiuta, e io ho letto di alcuni lavori scientifici e di alcuni report anche del National Institute of Health, dove addirittura la consigliano come passaggio, sistema, sì, come sistema per poter cercare di impedire. Professore, prima di passare la parola al dottor Santoro, un messaggio che arriva proprio da lei. In America ormai non fuma quasi più nessuno, mi scrive l'ascoltatore. Mi chiedevo se il professore, che è lei, ha notato significative differenze nell'incidenza di tumori, ad esempio tra Italia e USA. Ci sono? Ma ci sono, è chiaro che questa campagna antifumo ha portato a un miglioramento della mortalità nel campo del tumore al polmone, ma non solo il tumore al polmone, ho detto il professor Santoro, perché no, il fumo viene anche assorbito dai tessuti, quindi il tumore alla mela, il tumore alla vescica. Certo. Qua adesso bisognerà solamente capire, intuire anche, oltre al fumo di sigaretta, quali sono altre sostanze che possono, certo, che possono causare questo tipo di patologie. Ma c'è stato un grande miglioramento evidente che chiaramente continua a supportare questa campagna antifumo. Quindi chi smette ci guadagna in ogni modo. Vorrei dare la parola a Vincenzo da Roma e a Stefano da Bologna. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di dare un punteggio al loro stile di vita. Oggi parliamo proprio di questo, degli fattori di rischio che noi possiamo modificare, quelli che dipendono da noi: alimentazione, attività fisica, cessazione dal fumo. Ce ne sono altri su cui non abbiamo alcun margine di intervento: l'età, il sesso, il patrimonio genetico, e dipendono anche limitatamente da noi altri fattori che possono rappresentare un rischio per la nostra salute. Parlo dell'aria e dell'ambiente, di cui naturalmente parleremo, ma lasciamo parlare i nostri ascoltatori. Vincenzo, buongiorno. Ah, buongiorno, buongiorno a voi tutti. Volevo appunto ricondurmi allo stile di vita e quindi far presente che chi smette ci guadagna. Io ho smesso di fumare 10 anni fa, ho 43 anni. E oltre a questo, ho cambiato anche stile di alimentazione, perché sono diventato vegetariano, e fermo restando che sono convinto che non siamo idonei a mangiare carne. Oltre a questo, conduco uno stile di vita a livello sportivo sovente, perché tutti i giorni, tutte le settimane, 3 volte a settimana frequento la piscina, quindi faccio nuoto, e faccio nuoto da sempre. Quindi da sempre il punteggio massimo. Direi 3. Sì, ma anche per un'altra ragione, perché dimostra come si possa smettere di fumare, basta volerlo fortemente. Gli darei un 3 più per questo ulteriore aspetto. E soprattutto ci dimostra un altro aspetto di cui noi parliamo spesso, ma che volevo condividere con voi, che il cambiamento innesca un cambiamento. Vincenzo ha smesso di fumare, poi ha avuto il desiderio di mangiare meglio, ha fatto una scelta vegetariana, e ha avuto voglia poi di fare attività fisica. Quindi spesso il problema è iniziare da una cosa e poi a ruota vengono le altre. Stefano da Bologna, buongiorno. 800 24 00 24, confrontiamoci. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei. Dunque, io mi chiamo Stefano, telefono da Bologna e sono un medico. Allora, al di là del mio stile di vita, ho fatto anch'io una scelta da qualche anno, non di diventare vegetariano, ma di ridurre la carne a 3 volte al mese e inserire molto più spesso il pesce, verdura, frutta, eccetera. Come stile di vita, la camminata 2 o 3 volte a settimana si va a fare. Quindi dal buon esempio, dottore. Cerco di dare il buon esempio, ma la cosa che mi disturba in un certo qual senso è che quotidianamente, con pazienti affetti da patologie importanti, quando io chiedo, ma nel tal ospedale, nella tal clinica, accanto alla terapia giustissima, vi hanno anche dato consigli di buona alimentazione, sento dire che spesso hanno risposto, mangi come vuole, sia in pazienti oncologici, sia in pazienti cardiovascolari. Questo veramente mi lascia perplesso, perché certo, come dicevate prima voi, le evidenze scientifiche ormai sono veramente tante. Allora, si parla, ma quanto si pratica? Lasciamo. Sì, cerco di rispondere. Sì, dottor Santoro, grazie Stefano, anzi dottore. Allora, sono totalmente d'accordo con il collega di Bologna, e questo è un errore della classe medica e della gestione degli ospedali che andrebbe totalmente corretta. Ognuno poi può agire nel campo dove lavora. Ad esempio, nella mia struttura abbiamo, non solo ci curiamo questi aspetti e diamo la possibilità di farlo, ma addirittura cose banali, ma su ogni relazione di dimissione viene segnalato a fondo pagina che l'abitudine al fumo e la dieta non adeguata sono dei pericoli notevoli per la salute di tutti i pazienti, e invitiamo a smettere. Quindi siamo andati oltre, non solo lo consigliamo, ma lo scriviamo in maniera tale che il paziente, se solo guarda qualunque nostra prescrizione, per qualunque patologia arrivata alla nostra struttura, comunque questo balza all'osservazione e all'attenzione. Quindi sono d'accordo, ci vorrebbe una campagna più su larga scala nazionale, ma io credo che i temi della prevenzione in Italia siano ancora troppo poco considerati. Se è vero che siamo quello che mangiamo e che la nostra salute passa attraverso il movimento e la cessazione di abitudini quali il fumo, è anche vero che siamo quello che respiriamo. La qualità dell'aria del nostro paese è allarmante, come dimostra il rapporto 2012 dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'Ambiente relativo al periodo 2001-2010. Il nostro paese è quello che ha sfiorato più spesso i limiti comunitari per le polveri sottili. Dottor Santoro, sappiamo che ad esempio sono in aumento le allergie. Ecco, sì. Però i danni non si fermano qui, c'è dell'altro. Sicuramente sì. Innanzitutto vorrei chiarire come questi metodi di valutazione sono in qualche maniera artificiosi e non sempre rispecchiano un reale danno. È ovvio, parte da un principio generale. Più particolato c'è nell'aria, particolato sì. Intendiamo tutte quelle sostanze tossiche che ci sono nell'aria, più aumenta il rischio di poter avere delle patologie correlate. Ma io direi che forse sono più patologie di tipo respiratorio che non sì. quelle di tipo oncologico. Dal punto di vista oncologico diciamo che sono fattori associati, cioè se io fumo e vivo anche in un ambiente inquinato con un'alta quota di sostanze tossiche, il mio rischio di sviluppare un tumore polmonare aumenta in maniera esponenziale. Quindi bisogna in qualche maniera evitare categoricamente la sommazione dei due fattori, e certo sarebbe meglio vivere anche in delle città con un aria migliore. Sì, perché a proposito di ambiente, lo sappiamo, ci sono dei luoghi più a rischio di altri. Ne parliamo col dottor Pietro Comba. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Direttore del reparto di epidemiologia ambientale dell'Istituto Superiore di Sanità e responsabile scientifico del progetto Sentieri, studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio di inquinamento, finanziato dal Ministero della Salute. Dottor Comba, ci vuole illustrare il vostro progetto e ci aiuta a capire come si riesce a misurare l'impatto che l'inquinamento produce sulla nostra salute? Perché abbiamo bisogno di avere delle informazioni, di capire come fate voi a rilevarlo. Sì, dei molti siti inquinati italiani ci siamo concentrati su quelli definiti di interesse nazionale per le bonifiche, in quanto sono quelli in cui si accumula un inquinamento delle varie matrici, suolo, acqua, aria, e che per quantità e qualità può avere un impatto sulla salute. E in questi abbiamo studiato per 8 anni le cause di morte della popolazione residente. Si tratta di una popolazione complessiva di 5 milioni e mezzo di abitanti su 298 comuni. Abbiamo studiato la mortalità per 63 cause e avendo però prima fissato le ipotesi scientifiche su quali cause di morte potrebbero essere accresciute in funzione delle fonti di emissione di agenti inquinanti. Taranto è uno dei 44 siti di interesse nazionale sui quali abbiamo lavorato e sostanzialmente abbiamo trovato una corrispondenza fra le cause di morte per le quali abbiamo rilevato degli eccessi, in particolare i tumori del polmone, le malattie respiratorie anche non tumorali, i mesoteliomi della pleura e le fonti di emissione di agenti per i quali una relazione causale con queste malattie è certa o è sospettata sulla base di elementi piuttosto importanti. Le ricerche, le indagini servono per acquisire conoscenze da cui procedere per trovare soluzioni, strategie preventive. Dottor Comba, le abbiamo? Allora, sì, e noi abbiamo da un lato la valutazione della necessità della bonifica dell'ambiente in questi territori. L'indagine epidemiologica aiuta a scegliere le priorità dell'intervento di risanamento ambientale per spezzare quelle catene causali fra la presenza di sostanze tossiche e la comparsa di malattie. Quindi, dovendo intervenire, ad esempio, è possibile scegliere le questioni prioritarie. A Taranto, per esempio, l'esposizione di idrocarburi policiclici aromatici che si diffondono intorno a alcuni settori del polo industriale. Dottor Santoro. Ovviamente non posso che essere totalmente d'accordo con ciò che ha detto il dottor Combo, con cui ho anche spesso il piacere di collaborare. Solo vorrei aggiungere però una piccola nota critica. Ovviamente noi dovremmo bonificare queste sedie. Il lavoro che viene fatto col progetto Sentieri e con altro da parte del Ministero è sicuramente estremamente utile, ma questo a mio avviso non sempre si ribalta in un adeguato stanziamento di fondi per la bonifica, perché è vero che abbiamo una mappa adeguata di questi siti ad alto rischio, ma non mi consta, non ho conoscenza di fondi adeguati perché poi questo si traduca in una pratica, in una situazione di bonifica e quindi di miglioramento dello stato generale del paese anche dal punto di vista ambientale. E veniamo all'amianto. Professor Giordano, un materiale altamente inquinante e tossico, da 20 anni una legge nel nostro paese ne vieta la produzione e il commercio, ma i danni si contano ancora e c'è una relazione spiegata causa-effetto. Sì, l'amianto, io proprio recentemente ho pubblicato un libro bianco che nasce da un'idea proprio nel 1970 di mio padre, che al tempo col professore Maltoni del Collegio Onorazioni di Bologna denunciò, il professore Selikov, che è un po' diciamo il padre nella lotta con l'amianto e le case di Mesoterione. E io ricordo da bambino che c'era questa sempre diatriba, ma l'amianto non c'è il nesso di causalità, non si sa che questo, insomma, in poche parole ci sono voluti in Italia più di 40 anni finché si riuscisse ad arrivare anche a un risultato anche a vantaggio delle famiglie, a condannare i responsabili di questi grandi sversamenti tossici. Bene, le stesse cose si stanno ripetendo più o meno in Campania, dove la situazione è tragica, dove la Campania realmente ha una serie di terreni che sono altamente contaminati e di sversamenti di rifiuti tossici illegali, e dalla quale in realtà non è che si è ricavato molto dal punto di vista istituzionale. Sì, ci sono stati alcuni studi, però non c'è un programma di bonifica, ma prima del programma di bonifica ci dovrebbe essere un programma di fermare questo sversamento di rifiuti tossici, ed è un programma anche di prevenzione specifico in quelle zone, perché noi sappiamo che in quelle zone c'è un aumento di tumori incredibile, diversi tipi di tumori, e la popolazione è una popolazione a rischio, quindi c'è bisogno di un programma anche di prevenzione molto serrato in quelle regioni della Campania. E attenzione, non è solo la Campania, certo, è Puglia e anche le altre regioni del sud, come Calabria e Sicilia, che vorranno usare anche il nostro modello, diciamo, scientifico sul problema. Volevo aggiungere anche un'altra cosa, sì. per farle capire il paragone Italia-America. Quando io denunciai e iniziai a pubblicare il primo lavoro finanziato dal governo federale americano al Dipartimento della Difesa americano, simultaneamente nella base NATO il generale Robinson, che è il Surgeon General allora, è stato fino a poche settimane fa, decise di iniziare anche un programma per riuscire a capire che tipo di sostanze cancerogene trovarono nella contaminazione dell'acqua potabile, addirittura diossine, furani, pesticidi, bifenili, metalli, ne potrei fare una lunghissima lista di questa. E dopo questo studio veloce circa 2 anni in cui si dimostrarono tutta la presenza di tutte queste sostanze, la NATO, quindi il governo federale americano, ordinò a circa 2.000 dipendenti di muoversi dalle zone contaminate della Campania. Noi in decenni di sversamenti abbiamo visto ben poco in Campania come risultati e come rimedi a tutto questo. E questa è una denuncia molto forte che vorrei commentare col dottor Santoro e il dottor Comba prima del no, prima di chiudere, per avere un quadro generale. Dall'America torniamo in Italia, dottor Santoro, poi passiamo la parola al dottor Comba. Dividerei due argomenti per quanto riguarda quello dell'amianto, anche se in parte possono avere dei punti di correlazione. Per quanto riguarda l'amianto, il rapporto causa-effetto è ben determinato, sicuramente giusta un'attenzione elevata, però io penso che dal 1992 la prima legge, diciamo, contro l'amianto, siano stati fatti dei passi avanti, non tutto quello che la legge prevedeva, ma oggi il problema è ridimensionato. Non dimentichiamoci che a fronte ai 70.000 morti per tumore polmonare, in fondo ci sono il numero di mesoteliomi che si riscontrano ogni anno in Italia sono 700, ed è dimostrato che dal 2015 ci sarà una progressiva riduzione grazie a questo. Poi ci sono E l'esposizione, quanti anni di esposizione a un inquinamento tossico servono, sono necessari, mi dispiace usare questo termine, sì, per produrre un effetto sulla nostra salute? Il periodo di latenza fra, sì, l'esposizione e il manifestarsi di un mesotelioma pleurico è estremamente lungo, parliamo di decenni, di 10-15 anni, e questo spiega come alle volte anche fare delle valutazioni perfette, precise del rischio diventi estremamente difficile per tutta una serie di variabili. Non va dimenticato anche che abbiamo contesti diversi, situazioni come Casale Monferrato, dove ovviamente c'è un inquinamento esterno di un'azienda, ma ci sono anche altre condizioni come quella del paese in Sicilia, Biancavilla, dove in realtà è proprio ambientale per una montagna che ha una sostanza simile a asbesto che provoca un'aumentata incidenza, e lì diventa anche più difficile, certo, poter pensare di intervenire in maniera attiva. Quindi questo è per quanto riguarda il problema amianto. Per l'altro, delle discariche abusive, io conosco i dati che ha portato il professor Giordano, li condivido sicuramente, sono dati interessanti, però non posso negare che c'è anche un attimo di contrasto. I dati non sono sempre concordanti, proprio per le difficoltà che si ha a fare delle indagini accurate di causa-effetto in queste condizioni. Certo. Però mi sentirei di concludere con un'affermazione che penso sia condivisa da tutti. In ogni caso non è accettabile che la popolazione viva in ambienti inquinati. Ora io non so se il rischio è una volta e mezzo, due volte, tre volte, poco importa. Però questo è. Dottor Comba, passo la parola a lei, che come responsabile scientifico del progetto Sentieri può concludere anche con un messaggio. Tante zone inquinate, tanti studi in corso per verificare la relazione tra gli inquinanti e la nostra salute. Naturalmente le ricerche portano a una maggiore conoscenza per individuare delle strategie, ma, dottor Comba? Allora, in estrema sintesi, e salutando anch'io il professor Santoro e il professor Giordano, lo studio dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità indica una correlazione tra la mortalità per tutti i tumori, in particolare il tumore epatico, polmonare e gastrico nei comuni della Campania, a cavallo fra il sud della provincia di Caserta e il nord della provincia di Napoli. Sì. E su questo noi stiamo continuando a lavorare con l'ARPA Campania per l'individuazione delle sostanze presenti nei siti di smaltimento illegale e con il registro tumori della ASL Napoli 3 Sud, che è quella competente per territorio, quindi c'è il massimo impegno. Massimo impegno a misurare e produrre dati e individuare le priorità degli interventi di prevenzione. Io vorrei, a chiusura di questa puntata, abbiamo proprio un minuto, chiedere ai miei ospiti di chiudere con un messaggio breve, può essere un dato su cui è importante portare l'attenzione, una previsione, una raccomandazione o una buona notizia. Partiamo da adesso, avete 30 secondi. Dottor Santoro, cominci lei che è in studio. Ma direi che consiglierei a ognuno di essere un po' più attento a se stesso, di dedicare un po' più di tempo a quelli che sono il proprio fisico, l'attenzione alla dieta, all'attività sportiva. Potrebbe vivere meglio e più a lungo. Professor Giordano? Io invece vorrei mandare un messaggio alle istituzioni politiche che aumentassero, diciamo, la loro concentrazione e sensibilità sul grave problema dell'ambiente, e anche un messaggio a quei colleghi tecnici che dialogano direttamente con i politici. È importante far conoscere determinati problemi senza creare allarmismi, ma farli conoscere, perché solo conoscendo si può trovare delle soluzioni. Dottor Comba, grazie al professor Giordano. Dottor Comba, chiuda lei, 20 secondi. Il ruolo fondamentale della comunicazione che i dati scientifici siano conosciuti dai cittadini e che i tecnici ascoltino le preoccupazioni dei cittadini e ci si trovi su quel percorso. Grazie ai miei ospiti, grazie a voi, noi ci sentiamo come sempre domani. Buona giornata.